Queste nuove regole, in realtà, di cui ogni tanto si parla come se fossero roba nuova, è una proposta di modifica di cui si discute da vari anni, anche dal governo precedente, e ogni volta ci tocca ribadire le stesse cose. Devo dire, per fortuna, senza grandi problemi, perché tanto poi in ogni caso queste proposte non vengono mai attuate, quindi purtroppo per fortuna, quindi siamo ancora molto lungamente in ritardo su quella che è una riforma urgente. Il codice della strada è fermo al 1992. E i risultati si vedono, perché siamo uno dei paesi fanalino di coda sulla mortalità stradale, e questa proposta di cui viene discusso, diciamo che a nostro parere è un accrocchio di norme, di cui alcune corrette a nostro avviso e positive, altre invece assolutamente dannose. Cioè, sembra che manchi completamente una visione d'insieme di quello che dovrebbe essere la circolazione sulle strade. Quindi si cerca di fare un po' contenti i ciclisti, un po' contenti gli automobilisti, viene da pensare forse un po' contento un partito, un po' contento l'altro, visto che il governo vede sostanzialmente la coalizione di due partiti molto diversi tra di loro, e quindi ci ritroviamo a discutere di una riforma del codice che da un lato prevede l'inasprimento delle pene per i limiti di velocità nelle aree urbane, dall'altro l'innalzamento dei limiti di velocità in autostrada, cioè la proposta di innalzare il limite dai 120 km/h attuali ai 150 km/h, il che in termini di effetti dell'incidentalità è un pensiero disastroso, perché parliamo anche proprio, no, dell'impatto che può avere un incidente su altri veicoli e di conseguenza sui danni per le persone. Quindi sembra che manchi completamente una visione. Poi si parla di nuovo di doppio senso ciclabile, insomma, in Belgio l'hanno fatto da 20 anni, qui ogni volta ne parliamo come se fosse una cosa nuova. Fra le altre cose, la questione del senso contrario nei sensi unici, vedo che probabilmente il nostro sindaco, che si è già espresso contro i ciclisti, avrà qualcosa da ridire. Fra l'altro è una regola che sembra che debba essere approvata a livello locale. Stiamo parlando del doppio senso ciclabile, che poi ai giornali piace molto chiamare contromano, perché così tutti si indignano. Capite che già qui abbiamo proprio un problema di mentalità, perché il contromano è quando si va contro il senso di marcia. Se si decide che il senso di marcia è per entrambi i sensi, per chi va in bici, perché la bici con ogni evidenza non ha le stesse dimensioni di una macchina, e quindi nella stessa strada due auto in senso contrario non possono passare, ma un'auto e una bici sì. Capite che se questa cosa noi la chiamiamo contromano, vuol dire che nella nostra testa c'è qualcosa che non funziona, e siamo convinti che in qualche modo tutto quello che concerne il mondo della bicicletta debba per forza essere, per citare appunto il nostro sindaco, materia da ciclisti selvaggi. Poi d'altra parte ci diciamo, no, nei piani urbani della mobilità sostenibile, nelle conferenze, quando, no, c'è stato il G7 dell'ambiente l'anno scorso a Bologna, andiamo a raccontarci che viviamo l'emergenza del cambiamento climatico, che dobbiamo ridurre i consumi, che dobbiamo ridurre le emissioni e che quindi la bicicletta è il mezzo del futuro. Ecco, dobbiamo fare un po' pace con queste diverse visioni. Cioè, se la bicicletta è il mezzo del futuro, dobbiamo trovare il modo di rendere più facile usare la bicicletta. Dobbiamo fare in modo che usare la bici sia conveniente, perché se io oggi sono in via Santo Stefano e devo andare in piazza Aldrovandi, è naturale che voglio passare da via Guerrazzi, ma non perché sono un ciclista selvaggio, ma perché è la via più breve, e perché l'alternativa è fare una via molto più lunga, un percorso più lungo, che rende non conveniente l'uso della bici. Quindi, fuori da ogni partigianeria, il doppio senso ciclabile non si può dire che è pericoloso. Sulla base di cosa? Tutti i paesi che l'hanno fatto hanno registrato una diminuzione dell'incidentalità, perché se io vado in un verso e l'altro veicolo va nell'altro verso, è chiaro che ci vediamo benissimo l'un l'altro e siamo in grado di coesistere sulla stessa strada. Infatti, anche senza andare in Olanda o a Bruxelles, vediamo Reggio Emilia ha il doppio senso ciclabile in tutto il centro storico dal 2007 e ha registrato una diminuzione degli incidenti. Quindi mi piacerebbe che su questi temi si guardassero un po' gli studi invece che parlare solo per opinioni o per proprie sensazioni, no? Credo che sia nell'interesse di tutti essere più sicuri. Queste nuove regole del codice della strada prevedono l'uso del casco, prevedono altre cose. Cos'altro mi puoi dire? Allora, si discute di nuovo per la centesima volta ogni volta che c'è un deputato che si sveglia, che vuole fare qualcosa di innovativo e far scrivere i giornali, esce fuori la proposta del casco obbligatorio. Anche qui basterebbe uscire dal proprio angolo e vedere cosa succede nel mondo. L'unico paese europeo che ha il casco obbligatorio è l'isola di Malta, che mi risulta non abbia, diciamo, il primato per ciclabilità. I paesi dove la bicicletta viene molto usata non hanno il casco obbligatorio, il che non vuol dire probabile che il casco non sia utile. Tra utilità e obbligatorietà ci sono delle vie di mezzo. Allora, il casco è un dispositivo molto utile quando si sostengono forti velocità, per esempio per il ciclismo sportivo, eccetera. In contesto urbano non è rilevante, e anche questo lo dicono gli studi. Altrimenti dovremmo far indossare il casco anche ai pedoni, perché è dimostrato che la metà dei traumi cranici che si presentano al pronto soccorso sono di persone che sono cadute mentre erano a piedi. Quindi anche per loro sarebbe utile il casco, ma non possiamo costringere tutti a indossare un dispositivo di questo tipo. Non sarebbe utile alla sicurezza. Ma immaginate solo il bike sharing. Cioè, il bike sharing fallirebbe se il casco fosse obbligatorio, perché uno dovrebbe girare sempre con un casco pronto nella borsa e non avrebbe più la possibilità di usare, per esempio, la mobile quando ne ha bisogno.